Vamos al mar a bañar los cogoñeros. Vamos al mar a bañar los cogoñas. Sulla spiaggia, mezza nuda, mangio nuda, dormo nuda, prendo il sole, seminuda. La voglia di vedermi da sotto il sole, il mezzo ma umido d'acqua e sale, qui sopra i miei capezzoli due viole, per un istante splendida insieme a te. Nuda, tutta nuda.